Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. È stato prima perché poi più tardi c'è stato lo sciopero, altrimenti non arrivo in tempo al lavoro. Molti disagi, quindi bisogna partire presto, arrangiarsi con i propri mezzi. Causa inutilizzo, vendo la mia terza bicicletta. Il pericolo più grande sono le macchine. Uso la bici, la trasporto sul treno, la carico lì alla stazione dei Ladispoli. C'è un vagone apposta dove si possono mettere le bici. Quando la catena non sale è sempre sintomo che la tensione della corda è troppo lenta. Dobbiamo andare a mettere la corda più in tensione. Quindi andremo a chi è che oggi non verrebbe voglia di prendere una bicicletta e iniziare a pedalare? Chi magari la bicicletta non la prende più da quando è ragazzo, da quando magari la usava al mare, i giorni di vacanza, ma ha in profondo disprezzo il pedalare per le città, sì, perché le città non sono adatte alla bicicletta, o non tutte le città sono adatte alla bicicletta. Oggi è la giornata dello sciopero nazionale dei trasporti, quindi molti avranno preso l'automobile, molti saranno rimasti a casa, le strade sono ingolfate. Pensate che bello oggi prendere una bicicletta, ma non una bicicletta di quelle da maniaci perfette, con 300 cambi ergonomiche, con il sedile antiprostate e antimorroidi che sono quelle più vendute. No, quelle biciclettacce mezza arrugginite che si trovano ai bordi delle strade. Un periodo Roma era piena di biciclette inchiavardate ai pali e abbandonate lì. Poi via via lentamente, giorno dopo giorno, come se fosse un lento disfacimento, spariva una ruota, spariva il manubrio, spariva la sella, spariva il fanale, rimaneva soltanto la crisalide dello scheletro, il telaio appoggiato al palo. Beh, se ne vedono sempre meno, perché? Perché la bicicletta è diventata un bene importante. Quei telai arrugginiti ridiventano nuove biciclette. È stato fatto uno studio da Repubblica giorni fa per cui nel 2011 gli italiani hanno acquistato più biciclette che automobili. Voi direte, che sforzo, la bicicletta costa poco. Ma non è soltanto questo. Gli italiani hanno cominciato a restaurare le vecchie biciclette, come hanno iniziato a rifrequentare le vecchie case dei nonni semi-abbandonate nei paesini d'origine. Siamo concretamente convinti che la crisi stia arrivando. La crisi morde forte il sedere a chi perde il lavoro, a chi comincia a avere la disperazione come ingrediente quotidiano, un po' meno a chi comincia a rinunciare a qualcosa. Tra le tante rinunce quotidiane è quella proprio di un mezzo di locomozione che consuma 2 euro per ogni litro di carburante e quindi si va in bicicletta. Ma è anche liberatorio andare in bicicletta in giornate come queste, in cui c'è l'elenco della spesa delle futili divagazioni dei nostri amministratori: caviale, champagne, ostriche, feste luculliane, centinaia di migliaia di euro spesi in fotocopie, in materiale di cancelleria, poi donne belle, fasciate, ammiccanti, rifatte, che vanno, entrano, escono, testimoniano, che hanno le accompagnatrici degli accompagnatori, che a loro volta avevano una vita che noi nemmeno immaginiamo, perché è un'immaginazione che ormai è così di basso conio, così lontana dalle nostre più sublimi immaginazioni, che non pensavamo più che nemmeno chi avesse la disponibilità, anche truffaldina, avere denaro a disposizione, facesse quel genere di vita. Beh, di fronte a questo non sarebbe bello montare su una bicicletta e mettersi a pedalare e andare verso spazi lontani, lasciandosi tutto dietro le spalle? Io trovo che sia un'attività destressante, nel senso che quando uno va al lavoro a fare un'attività consente di scaricare quella tensione che comunque uno ha sempre prima di fare un'attività. Carico la bici in treno, scendo qui a San Pietro e vengo al lavoro in bici. La bici paga come una persona, diciamo. Ci sono dei vagoni apposta per metterli all'interno. Io sto qui in 25-30 minuti. Cosa che in macchina ci metti almeno il doppio col traffico che c'è. Di solito fanno anche la doppia fila le macchine per entrare in centro. È capace che ti devi stringere molto, avvicinare molto e fare molta attenzione. È pericolosissimo. Altri pericoli, niente, solo le macchine. Io so che l'attenzione pubblica questa mattina è con un certo sorriso di soddisfazione, del quale però io provo più timore che condivisione, attenta all'arresto di Fiorito, del Batman. Già ho visto su Dago Spia la foto di questo Batman ciccione davanti alla Regione Lazio. Cosa verrà dopo di lui? Beh, dopo di lui verrà improvvisamente attuale la storia di Antonio Ricci, un disoccupato che trova un lavoro finalmente come attacchino comunale, perché immaginiamo che in questo momento sono cadute le clientele, le parentopoli, gli amministratori hanno altro da fare, quindi gli attacchini comunali possono lecitamente essere scelti tra le persone che hanno bisogno di lavorare e non tra gli amici degli amici, tra le fidanzate degli amici, fra lo zoccolume generale. Per lavorare però deve avere una bicicletta, e la sua è impegnata al Monte di Pietà perché la moglie quindi l'ha impegnata, quindi prendono le lenzuola di casa, vanno a riscattare la bicicletta perché il padre possa lavorare e dare il pane alla famiglia. Però questa bicicletta, in una mattina fantastica in cui tutti vanno in bicicletta, improvvisamente allo sciopero si contrappone l'andare in bicicletta, frotte di italiani in bicicletta vanno nelle strade, beh, a lui la rubano, e quindi improvvisamente l'onesto disoccupato trova il lavoro, diventa ladro di biciclette. Questo l'aveva pensato in un suo film De Sica nel 48, un film che è un capolavoro assoluto della storia del cinema internazionale. Beh, oggi Ladri di biciclette torna attuale, riguardatevelo, ripensatevelo. 800 24 0024, cominciate a prendere in considerazione la bicicletta come un'alternativa non soltanto all'angustia, alla crisi, alla miseria crescente, ma anche per buttarsi sotto le spalle questa attenzione così costante a quello che di male fanno gli altri. Pensiamo a quello che ancora di libero possiamo fare noi. Daniele Iari, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Daniele Iari ha fondato il Libero Ateneo del Ciclismo Urbano, l'ACU. È un attivista del movimento Salva Ciclisti di Roma, ha creato un ateneo, un'università della bicicletta. È in linea quello che sta facendo lei con quello che mi è venuto in mente dire questa mattina? Ma direi che è strettamente in linea, in quanto a questo aumento delle biciclette che ci ha sorpreso nelle vendite, noi abbiamo sentito l'esigenza appunto di affiancare un iter formativo che consentisse all'adulto che approccia, ecco, alle strade non sempre semplici delle nostre città un aiuto. Perché la cosa che temiamo di più è la sicurezza. Oggi abbiamo appunto una richiesta, una volontà di utilizzare questo mezzo per la semplicità appunto dello stesso, però spesso non lo si fa in un contesto di sicurezza o con la dovuta cautela. Diciamo che ancora le città sono restie ad accogliere l'idea della bicicletta, che non è soltanto... Guardi, io non so esattamente come la pensi lei, io non ho mai condiviso le masse critiche, i ciclisti che invadono le città, l'idea che la bicicletta sia anche un mezzo politico, boh, forse per qualcuno vale la pena, a me non me ne importa assolutamente nulla. Condivido quello che mi scrive Giovanna questa mattina sul profilo Facebook Melog Radio 24. Dice: le tue parole mi hanno fatto venire le lacrime, mi dispiace perché non vorrei mai istigare l'animo piagnone di nessuno. Mi sento infelice senza speranza. Non ero così, mi ci hanno fatto diventare. Pedalerò. Io vorrei, se lei mi aiuta questa mattina, dire che infatti l'idea di prendersi e pedalare c'è un profondo senso metaforico. Pedalare significa dare fondo a proprie risorse che in questo momento non sembravano utilizzabili, che è la forza muscolare, la forza fisica. Pedalare significa essere liberi. Io posso pedalare finché ce la faccio, poi mi fermo, poi ricomincio a pedalare. Non sono schiavo di qualcuno che mi impone un prezzo esagerato per il mio carburante. Paolo, buongiorno. Buongiorno, mi sente? Sì, sì, buongiorno. Certo. Grazie. Mi sono sempre lamentato dei ciclisti. Io guido la macchina, non vado in bicicletta, però mi sono trovato in più occasioni di creare degli incidenti contro questi ciclisti dovuto al fatto che il loro sistema non c'è un sistema di sicurezza. Vestono per esempio d'inverno, io abito in Brianza, con la nebbia, e vedi questa macchia nera all'improvviso che ti spunta senza un segnale, non hanno un giubbotto caratteristico frangente, non hanno una lampada lampadina dietro, una lampadina davanti. Com'è possibile che il codice della strada non abbia mai pensato? Vede Paolo, lei non ha capito nulla della trasmissione di questa mattina. Inizia subito con quella che è la polemica solita, automobilisti contro ciclisti. Io volevo far riflettere lei e altre persone che siano in un momento molto particolare, che non esiste l'automobilista fortunato e il ciclista sfigato, non esiste il ciclista che impedisce a lei di andare forte con la sua automobile, come è suo diritto. Esiste una possibilità di riflettere su una nuova dimensione della vita, che è appunto quella del prendersi e pedalare. Lei mi pone un problema che abbiamo trattato tante volte. Sì, è vero, magari ci sono ciclisti indisciplinati, molti rimangono spiaccicati, sono anche automobilisti che non si possono sentire a priori padroni della strada. Questo era il senso della trasmissione. Può recuperare su questo terreno? Io sono una persona che va molto piano e guaio che io lo faccio. Io vengo dagli Stati Uniti e non c'è è colpevole un ciclista se non ha un sistema di sicurezza. Se non, vabbè, se lei, non lei è impedito a cogliere metafore, è un limite, ci sono disabilità ben più gravi. Questa mattina quindi non la faccio più parlare. Andrea? Pronto? Sì. Buongiorno. Niente, volevo portare anch'io la testimonianza del recupero delle biciclette. Io proprio di recente, circa 6 mesi fa, ho recuperato una vecchia bicicletta di 25 anni circa. Posso dire la marca? Se ma sì, penso che nessuno si straccerà le vesti. Una Berma con la componentistica Campagnolo, veramente... Beh, lei parla da esperto, e non so di cosa si tratti. Però l'idea che il vecchio catorcio arrugginito, che sembrava destinato a rigattiere o conservato nel reperto, le cose che non sono più utili, si tengono per una sorta di lussura della conservazione, oggi diventa un mezzo indispensabile, non soltanto per permettersi di vivere, non siamo ai livelli del protagonista e ladro di biciclette, ma per potersi prendere il privilegio una volta tanto di fare qualcosa che non costa nulla, che non ha un peso sociale, per cui non ci si debba sentire in colpa perché magari si va ad intaccare una nostra riserva che potremmo destinare a migliori impieghi. Si va in bicicletta semplicemente perché dà il senso... dal senso di libertà. Ho avuto un attimo un groppo alla gola. Non so se questo è il senso del recupero della sua vecchia bicicletta. Ah, beh, recupero per non lasciarla inutilizzata, arrugginita. È venuta fuori veramente bene, lo uso parecchio anche per andare a lavorare, per fare i giri sabato anche di 50-60 km e te ne senti veramente, cioè, ti senti bene dopo un giro in bicicletta, come dopo un giro, dopo una corsa. Si sente veramente bene dopo la bicicletta. Oddio, adesso ho sentito anche prima i sistemi di sicurezza, però un vero ciclista non va via né vestito di nero e senza, rispetta sempre le regole. Un vero ciclista... Ma le vedrà, Andrea, che siccome i tempi non sembrano cambiare la loro deriva, almeno entro un breve lasso, prima o poi saranno molte le biciclette per strada e non ci si porrà più il problema del contrasto fra automobilista e ciclista. Ci saranno tante persone in bicicletta. Nicolò è caduto? Allora riprendiamo con Daniele Iari, che ha fondato il Libero Ateneo del Ciclismo Urbano. Nel suo ateneo si insegna la disciplina dell'andare in bicicletta. Se volessimo dividerla proprio per categorie, per lezioni tipo tecnico, tipo teorico, quale sarebbe il programma? Ma il programma si articola in vari punti. Appunto, questo del riciclo delle biciclette di cui stiamo parlando è un aspetto fondamentale. Mi toglie una curiosità. Sì. Se io vedo una bicicletta attaccata a un palo di cui rimane solo un telaio arrugginito, è vero che posso appropriarmene? Non è considerato un reato? O qualcuno, questa è una delle tante leggende metropolitane? Ma questo è siamo sul limite della leggenda, nel senso, in teoria andrebbe segnalata e richiesto lo sgombero, poi a quel punto uno ne può prendere il possesso, nel senso, nel momento in cui si segnala e viene rimossa posso... Cioè uno dovrebbe chiamare... No, perché se ne vedono, ancora se ne vedono veramente tante, molte volte sono telai di ottima fattura che basterebbe un po' di buona volontà e tornerebbero ad essere delle biciclette. Uno cosa dovrebbe fare? Avvertire i vigili, dire c'è una bicicletta che intralcia, la posso prendere? Poi può prendersela. Poi successivamente poi quando la mandano a recupero, perché finisce poi così, diventano dei rifiuti ingombranti, uno la può intercettare prima che vada in questo iter. Questo però è interessante, perché si puliscono le strade dai rifiuti ingombranti e si rimette in circolo comunque del materiale che può essere utile. Tenga conto che questa è una cosa che viene fatta su Roma, ci sono alcune associazioni che si occupano proprio di questo. Prelevano questi, tra virgolette, ruderi, li sistemano e poi attraverso delle aste a prezzi irrisori, 80-50 euro per fare un esempio, li rimettono in vendita finanziando poi queste attività di nuovo di recupero. Sì, perché molte volte è anche un brutto segno di un benessere che non ha più ragione di essere. Bici anche nuove, si vede che hanno camminato poco, buttate lì, le vedo giorno dopo giorno deteriorare, e dispiace molto perché potrebbero far felici tante persone. Beh, questo diciamo è il motivo per cui è nato l'Ateneo che abbiamo fondato, proprio per questa esigenza. Cioè, noi ci siamo resi conto che esistono i protociclisti, per citare l'altro fondatore dell'Ateneo. Il protociclista è proprio questo cittadino che compra una bicicletta perché sente l'esigenza e la volontà di utilizzarlo come mezzo, però poi nell'utilizzo quotidiano si scoraggia e tende ad abbandonare il mezzo. Allora noi come Ateneo rispondiamo proprio a questo, cioè cerchiamo di rendere consapevole e più facilmente fruibile l'utilizzo della bicicletta per chi ne ha la necessità e la volontà. Diciamo un'altra cosa che è un'altra voce comune tra chi ha avuto una bicicletta, acquistato una bicicletta o vorrebbe andare in bicicletta. Almeno a Roma, ma anche in altre città, ne rubano tante di biciclette. Le rubano dentro i condomini. Molte volte ottenere il diritto di mettere una rastrelliera in un piazzale condominiale bisogna scontrarsi con 2000 umarel arrabbiatissimi che dicono la bicicletta poi impedisce loro, non so, di avere una visuale dalle finestre del bagno o cose del genere. Sì, il furto delle biciclette è un altro degli aspetti che stiamo riscontrando. Una maggiore vendita di questi mezzi sta portando ad un nuovo mercato fiorente in tal senso. Noi abbiamo fatto una petizione, la stiamo portando avanti proprio per ripristinare la possibilità di avere i parcheggi negli spazi condominiali. È una cosa che in città come Milano e mi sembra Torino è già passata. Quindi su Roma stiamo cercando di ripristinare questa vecchia normativa. Questo anche perché, come diceva giustamente lei, il fenomeno dell'aumento di ciclisti è abbastanza evidente. E dobbiamo creare appunto una situazione per la quale questo non avvenga in un contesto di poco orientamento, di poca normativa, creando più disagi che vantaggi. Nasciamo proprio come questa esigenza, cioè cercare alla fine di trovare tutte quelle soluzioni che consentano di utilizzare un mezzo semplice e libero, mettendolo, non dico allo stesso livello, però affiancato ad altri mezzi di comune utilizzo. Sentiamo Alessandro, buongiorno Alessandro. Alessandro? Alessandro? Sì, eccoci. Sì. Ecco, io volevo portare appunto la mia testimonianza in questo senso. Confermo la metafora, ma la metafora a tutto tondo, cioè uno usa la bici e riacquista la libertà nella gestione della propria energia, non è più vincolato al gasolio, alla benzina, alla macchina gialla, rossa, metallizzata, ma con le proprie forze si mette in movimento, decide quando, quanto, se fare un'ora, due ore, tre ore. Ecco, lei si rende conto che in una città di media italiana, ma anche in una città come Roma, una metropoli, ancora andare in bicicletta può essere considerato essere sfigati, come non hai lo scooterone, non hai una macchina decente, mi vieni a prendere in bicicletta, a parte le città dove è fisiologico, fa parte del costume da sempre di andare in bicicletta, è molto impegnativo. In una città come Roma andare in bicicletta o si viene classificati come appartenente a un gruppo, un'ideologia, a una categoria umana, o siano guardati con molto sospetto. Perché? Perché Roma è la città dei motorini, la città dove ci sono più scooter che in India probabilmente. Ma sì, però fa anche parte di un gioco, diciamo, di riprogrammazione anche culturale, in quanto dobbiamo essere come dire, più snelli, dobbiamo fare del saving anche sulla nostra vita. Cioè, io quando vado in bici e vado dal contadino a prendere due caspi di insalata e una mela e vado a casa e li mangio, non sono stato al centro commerciale, non ho subito l'impatto dei media, della pubblicità, a costo diciamo anche di fare un po' di retorica, ci stiamo piano piano riprendendo in mano la nostra personalità, anche la nostra. Non trova un paradosso che ci sono persone che pagano fior di soldi per andare in dei posti chiusi dove c'è puzza di sudore, pedalare sulle biciclette statiche con la musica assordante quando potrebbero prendere una bicicletta per poche lire e andarsene tranquilli per fatti loro? Assolutamente, assolutamente. Io ho iniziato a pedalare, diciamo, seriamente, fra virgolette, 3-4 anni fa. Ho iniziato per scherzo con una bici che avevo in cantina piena di polvere e oggi la uso quotidianamente, un po' per sport, un po' per andare al lavoro, un po' anche per andare magari a fare la gita con la famiglia, ecco, perché poi è bello anche fare, non so, una scampagnata di un paio d'ore con i cestini, insomma. Chi lo dice? L'unica maniera che ho io per stare in pace con i miei figli, andarmene con loro in bicicletta. Ma sì, usciamo dall'ingordo, usciamo dagli stereotipi. 800240024. Oggi riflettiamo sulla bicicletta. La mia non è un'indicazione assoluta, non è un peana a favore della bicicletta per uccidere l'automobile cattiva, ma figuriamoci. Mi scrive infatti un ascoltatore, saggiamente ma anche con un tono di polemica, dice: Nicoletti, tutto molto bello e bucolico, ma io che faccio il consulente, faccio decine di chilometri al giorno, come li faccio in bici? Beati coloro che possono andare al lavoro in bicicletta. Luca da Monza e tante altre persone che vivono in città dove è impossibile andare in bicicletta. La mia nativa Perugia sarebbe quasi impossibile, una città costruita in collina, sono tutti saliscendi. Ma volevo solo riflettere su questa resurrezione della bicicletta nell'immaginario comune, collettivo. Poi è chiaro, chi è costretto, chi necessariamente deve prendere l'automobile, la terrà appesa in garage, la terrà nel cortile condominiale, ma comincerà ad accarezzare l'idea di avere una bicicletta. Guardate che negli ultimi 20-30 anni la bicicletta era scomparsa dal nostro immaginario. Si compravano piccole biciclette ai bambini finché erano piccoli, ma appena avevano 13-14 anni si passava allo scooter, veniva dimenticata, poi si recuperava magari l'estate al mare, nella seconda casa, buttata in un garage. Oggi invece no, la bicicletta è ritornata centrale. Esistono grandi magazzini venditori di fantastiche biciclette colorate che costano anche pochissimo, se ne vedono sempre di più in giro, ma soprattutto è uscita dalla recinzione delle cose belle di una volta, oggi è diventata attuale. Mi scrive poi su Facebook, sul profilo Melog Radio 24, Stefano mi suggerisce un distico interessante: la bicicletta somiglia più che ogni altra macchina all'aeroplano, essa riduce al minimo il contatto con la terra e soltanto la sua umiltà le impedisce di volare. È Mauro Parrini, A mani alzate, un testo del 2009. Cristina, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Io volevo raccontare un attimo della... Vivo fortunatamente in una città che è Livorno, che quindi insomma sul mare, pianeggiante, e io sono da sempre un amante della bicicletta. E ho visto piano piano aumentare sempre di più i ciclisti nella mia città. 20 anni fa chi andava in bicicletta come me da sempre per lavoro e si muoveva in città, ci riconoscevamo, cioè c'era quello che andava in giro col caschetto anche 20 anni fa, c'era purtroppo il famoso vigile capellone, non so se vi ricordate, anche lui girava sempre in bicicletta, insomma ci riconoscevamo un po' tutti. Ora è impossibile riconoscersi perché è aumentato tantissimo il popolo dei ciclisti. Quindi lei è una nostalgica dei puristi antichi della bicicletta che vede con disprezzo questa massa plebea di ciclisti parvenuti. Ma no. Ma io no, a questi no, che mi rivolgo, no. Nemmeno io ero un ciclista, io non avrei mai sognato di rimettermi a pedalare in bicicletta. L'ultima volta che ero andato in bici, saranno 50 anni fa, non lo so. Sono stato costretto a necessità familiare a reinventarmi la bicicletta e oggi ne sono felice. E un'ultima cosa, mi fa un po' dispiacere una cosa sola, che molte persone di una certa età non sanno neanche più stringere un pedale di una bicicletta, oppure li vedo che vanno con le ruote ciondoloni, e questo mi fa un po' dispiacere perché si è persa un po' la manualità dei nostri genitori, che invece alle biciclette sapevano riparare la ruota, stringerti il pedale, insomma cambiare un freno, tutte queste cose. Si diciamo sono che il ciclista purtroppo dovrebbe essere autosufficiente, non dovrebbe aver bisogno di nessuno. La miglior cosa sarebbe essere autosufficienti anche per le piccole riparazioni, almeno sulla bicicletta. Ma tra le scene dei Ladri di biciclette, film che avevo citato in apertura, c'è la mattina della grande uscita con la bicicletta da casa, con il lavoro finalmente in tasca, il momento di massima felicità, la bicicletta la tenevano in cucina, appesa al muro come si faceva negli anni 40, e il bambino, il piccolo bambino antipaticissimo ma grande eroe protagonista dei Ladri di biciclette, gli stava oliando la catena, registrando i freni, registrando appunto, sì, controllando la pressione delle ruote. Quindi il bambino in cucina la mattina questo faceva. Giovanni, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io volevo portare una mia testimonianza. Io ho 36 anni, mi ricordo quando avevo 10 anni, nonno mi prese la prima bicicletta vicino al cassonetto ed era una Graziella richiudibile con le ruote 22. La dipinse tutta di blu. Si ricorda la Graziella, lo ricordo per quelli meno attempati, ci fu improvvisamente questo boom delle bici Graziella, erano biciclette con delle rotelline piccole piccole per signorine e signore di buona famiglia, si mettevano nel cofano dell'automobile, erano scomodissime, freno a contropedale, unico freno nella ruota davanti, pericolosissimo, stabilità zero, è totalmente fuori ogni aerodinamica, perché c'era un sellino che per pedalare agevolmente bisognava alzarlo di un metro, quindi era disastroso. Era una bicicletta da circo, diciamo la verità. Esatto, però tutto sommato sono arrivato alla veneranda età di 36 anni senza acciacchi, perché abbiamo imparato un concetto, cioè come diceva la signora prima, noi imparavamo ad aggiustare la bicicletta perché non esisteva il meccanico. Si bucava una gomma, si registrava un freno, si oliava la catena, usciva la catena, una serie di cose. Però la bicicletta, secondo me, è un concetto diverso. Cioè, che vuol dire? Dà un senso di libertà. Come la scelta tra la barca a motore e la barca a vela, se io scelgo la barca a vela non è solo per risparmiare carburante, è il concetto di libertà che mi dà, legata anche alla natura. Se la natura e il vento me lo dà, io cammino, altrimenti sto fermo. Diciamo, è come quella lettura che si fa della filosofia orientale delle arti marziali in quei film di cassetta tipo Karate Kid, quando il vecchio maestro di karate mette il ragazzino a girare il pentolone o a pulire lo straccio per terra. Attraverso la bicicletta si recupera una cognizione più profonda del sé. Alfredo Bellini, buongiorno. Alfredo Bellini ha fondato un sito bicizen.it che mi sembra che cada proprio a fagiolo per quello che sto dicendo io. Esiste la possibilità di una disciplina profonda e di rieducazione della propria personalità, della propria attitudine al vivere attraverso la bicicletta? Assolutamente sì, la bicicletta ci rimette a contatto con noi stessi, con l'ambiente che ci circonda. Siamo sicuramente anche più rilassati rispetto agli automobilisti. Spesso nel traffico abbiamo la possibilità anche di percepire questa cosa, noi ci muoviamo abbastanza tranquillamente, gli automobilisti spesso sono nervosi, agitati. Essere zen significa, ecco, appunto, andare per la propria strada, andare senza farsi coinvolgere da eventuali appunto problemi con gli automobilisti, ed essere presenti a se stessi. Quindi la bicicletta zen è un'ottima possibilità per andare in bici, per riprendere ad andare in bici, perché ci sono tante persone che adesso hanno voglia di andare in bicicletta, ma hanno un piccolo problema. Il problema è la sicurezza delle strade. Oggi le strade non sono ancora per i ciclisti. Molte azioni delle amministrazioni dovrebbero puntare sulla sicurezza dei ciclisti. C'è una famosa campagna di Salva i Ciclisti che chiede proprio questo, chiede proprio sostegno alle amministrazioni, alla sensibilizzazione, affinché le strade siano decisamente più sicure. Perché ma non trova lei, Bellini, che in realtà questo sarà possibile in maniera più capillare quando si uscirà dal pregiudizio che andare in bicicletta significhi appartenere comunque a un coté ideologico, ecologista, salutista, antagonista e via dicendo, che ha un po' stufato onestamente? Guardi, io vi faccio esperienza di Napoli. Io sono di Napoli e 6 anni fa anch'io ero uno degli sfigati come te, insomma, come tante persone che prendevano la bicicletta soltanto per così, erano dei coraggiosi. Oggi a Napoli decisamente si vede un numero, è aumentato tantissimo il numero di persone in bicicletta. Questo è dovuto sicuramente anche a un fatto di moda, un fatto del prezzo della benzina, un fatto di tante motivazioni anche economiche, ma principalmente a delle azioni che si sono fatte anche qui, si sono pedonalizzate delle strade, si sono create le zone a traffico limitato, e quindi chiaramente le persone, anche quelle non, diciamo, anche gli automobilisti, hanno pensato che forse c'è la possibilità di prendere la bicicletta anche in sicurezza, perché una cosa, diciamo, che io ritengo importante, la bicicletta non è che fa bene, andare in bici non fa bene soltanto a chi va in bicicletta, fa bene alla città, alla vivibilità della città, gli stessi automobilisti, perché chiaramente una città con più biciclette è una città decisamente più bella, più vivibile. Fermiamoci un attimo, Giusy, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti, volevo raccontarle un po' la mia esperienza qui nella provincia di Milano. Io vivo in un paesino piccolissimo, a 20 chilometri di Milano, quindi vicino alla metropoli. Qui si va spessissimo in bicicletta, dai pensionati ai bambini. Io vado sempre in bicicletta, ho tre figli, una bici con due seggiolini, e quando aspettavo il terzo penso di aver stabilito il record, perché fino al settimo mese andavo in giro con le mie due figlie e il piccolino che avevo in pancia. Cioè in quattro in bicicletta andavate? Sì, quattro in bicicletta, infatti diciamo, ero quasi un fenomeno per i miei amici che mi vedevano. Però per me è un momento molto bello, perché riesco a parlare con loro, guardare un po' il paesaggio, come cambia il paese, quello che succede. Sono magari anche solo 10 minuti al giorno, però è un modo per star vicino. Anche con mio marito, quando andiamo a fare due commissioni, si prende la bici. Diciamo che sono fortunata perché è un paesino pianeggiante, per cui non ci sono grosse difficoltà. Lei si trova navigare naturalmente nel paradiso dei ciclisti, ma io quello che questa mattina volevo fare è far riflettere. Non è proprio un paradiso, perché le macchine vanno forti. Io adesso, la mia grande che ha la sua bici, cerchiamo sempre di prendere quelle poche piste ciclabili che ci sono in paese, oppure di fare dei percorsi, delle strade dove sono. Ma l'idea di questa mattina è, secondo me, il fatto che sta emergendo una nuova consapevolezza dell'essere umano che va in bicicletta, che lentamente sicuramente diventerà un movimento d'opinione che ha lasciato alle spalle ormai l'idea della bicicletta come strumento antagonista. Non è uno strumento antagonista, è uno strumento che può diventare protagonista della nostra maniera di vivere meglio, soprattutto nelle città. E vedrà che poi le amministrazioni dovranno tenere conto anche di questo, quando non saranno soltanto pochi appassionati o frange ristrette alla popolazione, quando tutti andranno in bicicletta, perché sarà la maniera migliore per andare in bicicletta, si ovvieranno quelle che sono le caratteristiche della città, del luogo, delle salite, delle discese, che non lo rendono sempre facile. E se volessimo adesso dare una motivazione ancora più profonda e vincolante a prendere la bicicletta, in questo ci aiuta l'ascoltatrice Lucia. Lucia, buongiorno. Buongiorno. Sì, io no, volevo dire che secondo me questi ciclisti che io vedo qui per Roma, adesso per esempio sono ferma sulla tangenziale imbottigliata, qualcuno passa, e devo dire che sono degli eroi, sono dei coraggiosi, sono sudati quanto basta, e anche mio marito poi è un ciclista, e devo dire che non mi sembrano degli sfigati, anzi. Guardi Lucia, siamo noi. Non ci giri intorno, io l'ho chiamata soltanto per un sms che ci ha mandato, in cui dice: i ciclisti sono sexy, quindi insista più su quel sudati che vede passando. Qual è il senso e il sentimento che le ispira il ciclista? C'è tutto, c'è la fatica, c'è la mascolinità, ci sono quei bei polpacci che si gonfiano quando vanno in giro. Ma non sia pudibonda, sta dicendo una cosa fantastica, non se ne vergogna. No, è vero, io... Lei si attizza, lasci perdere il marito un momento, lo metta sempre in mezzo, che stiamo parlando di qualcosa di suggestivo, non ci metta in mezzo il marito. Se sente la replica stasera, voglio. Non c'è la replica, l'hanno tolta, guarda, è fortunata, almeno in questo. Lo so, in questo almeno è fortunata però. Allora, si sfoghi, tanto suo marito non la sta ascoltando. Lei quale pulsione sente profondamente quando vede un ciclista con il polpaccio teso, sudato e chino sul manubrio? Insomma, mi ispira una certa possanza fisica, resistenza, come dire, sfida, tutto ciò che si è un po' perso, no? Parlavate di questi uomini che sculettano sulle passerelle, invece il ciclista è il contrario, insomma. Quindi altro che fare gli spogliarelli e ma la lap dance. Per carità. Montate su una bella bicicletta e vedrete che richiamerete l'attenzione. L'unica concessione alla femminilità che ha il ciclista quando fa le gare è che si depila le gambe, ma insomma tutto qua. Si vedono meglio i polpacci possenti. Pronto? Sì, ecco. È stata troppo forte questa cosa che ho detto. Vabbè, Lucia, non la voglio confondere perché deve riaffrontare il traffico e non vorrei turbarla con immagini che per lei sono suggestive e profondamente stimolanti. Quindi buona giornata. Enrico. Buongiorno. Ecco, per esempio che stamani in occasione dello sciopero qui a Milano, io chiamo da imparo da Milano. A Milano com'è la situazione ciclisti? Insomma, Milano, il fatto del pavé, delle rotaie del tram, ogni tanto è un po' difficoltoso andare. Sì, perché imboccare per dritto con la bicicletta le rotaie del tram è un'esperienza che non auguro a nessuno. No, assolutamente, anche perché sto appunto, il tram è di ferro e quando viene addosso fa molto male. E ho visto che molti appunto adottano la soluzione delle biciclette pieghevoli. Anche stamani ho visto che persone in giacca e cravatta, professionisti, vari lasciano la macchina a 2-3 km dal punto dove devono arrivare, tirano fuori queste biciclettine, sembrano anche leggere, carine. Sì, aprono. Ma non è la Graziella degli anni 70, sono biciclette strafighe, ergonomiche, sì. iper tecnologiche, sono molto belle, anche molto costose. Sì, beh, vedo che con anche 150 euro, vedo che le vendono i centri commerciali. Da 150 insomma, euro, sì, sì. Passano sui marciapiedi perché non hanno i ruotoni grossi, quindi fanno il piccolo tratto, appunto, come le dicevo, quando c'è il pavé, il tram e il marciapiede alto, insomma, possono sgattaiolare facilmente rispetto a una bici con le ruote magari grandi, con un raggio molto grande di... Quindi di ruote, c'è anche insomma. Questo fenomeno. Alfredo Bellini, ricordo che è fondatore del sito www.bicizen.it. Esiste anche però una maniera, secondo me, verso quale bisognerebbe tendere, non considerare più la bicicletta una sorta di uso scriteriato dei marciapiedi, delle zone improprie. Occorrebbe articolare le nostre città perché la bicicletta possa tranquillamente correre e scorrere senza doversi appropriare di spazi che non le competono. Sì, noi potremmo fare l'esempio dell'Olanda. L'Olanda fino agli anni 70 stava peggio di noi, era un paese in cui c'erano soltanto automobili, c'era un livello di motorizzazione incredibile, un livello anche di elevatissimo di persone uccise, ciclisti uccisi per le strade. Poi è successa una cosa fondamentale, che gli stessi cittadini, i ciclisti e i movimenti spontanei hanno chiesto proprio al paese, all'Olanda, al governo locale, di attuare una pianificazione urbana, quindi strade per le macchine, una corsia per le macchine, corsia per le biciclette e corsia per i pedoni. La stessa cosa si dovrebbe fare qui in Italia. Sì, quello che stanno facendo alcune associazioni di ciclisti organizzati. Ci sarà questo fine settimana è un'occasione importante perché ci saranno gli stati generali della bicicletta a Reggio Emilia, un momento importante di confronto proprio con le amministrazioni, tra cittadini, esperti e amministrazioni, per chiedere proprio questo, chiedere città più vivibili, dove ci sia possibilità di muoversi in maniera appunto... Provede Bellini che la bicicletta sta diventando l'elemento simbolico di un cambiamento, del quale non si riesce a vedere, nella politica non si riesce a vedere un punto d'appiglio per il cambiamento, nella società nemmeno, in nessun tipo di strumento evolutivo. Nella bicicletta comunque si riesce a trovare un argomento simbolico di coalizzazione di volontà di cambiamento, questo è interessante. Laura, buongiorno. Nicoletti, sì, ha ragione, ha perfettamente ragione. Volevo portare una mia piccola testimonianza. Ho scoperto l'isola ecologica, dove la gente butta di tutto, dove qualche giorno fa ho trovato una splendida bicicletta. Ma cos'è l'isola ecologica? Scusi, perché non lo so io. Una discarica? Una discarica ecologica. Ah, una grande pattumiera. Una grande pattumiera, dove ci trovi di tutto? Io ci sto arredando un appartamento, ci sto arredando la mia casa, lampadari. Lei in che città abita, Laura? Io abito a Ciampino, Roma. Ecco, a Roma da un paio d'anni esiste una nuova popolazione di cui... a cui nessuno fa caso, sono rom, immagino, sì. Che viaggiano tutto il giorno per la città con dei carrellini per la spesa, ravanando dentro i cassonetti. Ora, se loro ci vivono, evidentemente di roba da rimettere in circolo ce ne sta parecchio. Ce ne sta tantissima, infatti ho imparato a fare anche questa cosa, quando c'è un qualcosa che non va più, anche abiti usati. Sì, poi questo mette una grande tristezza. Adesso, il ravanarle il cassonetto non è esattamente quello che volevo dire. Sì, lei ha avuto fortuna, ha trovato una bella bicicletta, se la rimetterà a posto. Però non può essere il punto conclusivo della mia desiderio di abbandonare la consuetudine e mettersi a pedalare, andare a ravanare dentro i cassonetti. Comunque, ci abbiamo provato. Grazie Fabrizio Intonti, grazie Valerio Rocchetti, a domani.